GR24, il sole 24 ore. Sequestro con giallo per il cassiere di Berlusconi, chiesti 35 milioni in cambio di documenti. Monti si corregge, dopo le elezioni in Italia governi responsabili, appello congiunto da Napoli, Italia, Germania e Polonia contro la crisi. Oltre 90 ormai le vittime del conflitto a Gaza, Ban Ki-moon in Egitto prova a fermare i raid. Buongiorno dalla redazione, buona giornata da Anna Migliorati. Sono molti i punti ancora da chiarire dopo gli arresti di questa mattina per il sequestro lampo del cassiere personale di Berlusconi, il ragioniere Spinelli, l'uomo conosciuto per essere quello che avrebbe pagato le olgettine nella vicenda Ruby. Tra l'altro, rapito per una notte, i sequestratori gli hanno chiesto di chiamare il cavaliere e gli hanno offerto documenti. Tutti punti sui quali per ora si dovrà fare chiarezza. Ma cominciamo da quanto si sa e da quanto è emerso con Raffaella Calandra. Un foglio A4 ingiallito con la scritta Lodo Mondadori e 7 ore e 41 minuti di registrazioni che a loro dire avrebbero svelato retroscena cruciali nella guerra di Segrate. Ecco il dossier usato per ricattare Silvio Berlusconi dalla banda di 3 italiani e 3 albanesi che per una notte ha tenuto in ostaggio il ragioniere dell'ex premier Giuseppe Spinelli, l'uomo che gestisce la sua cassaforte personale. Un sequestro lampo il 15 ottobre scorso per chiedere a Berlusconi 35 milioni in cambio di questo materiale in cui a loro dire si dava atto di un incontro tra Gianfranco Fini e i magistrati della causa civile del Lodo Mondadori, quella per cui la Fininvest è stata condannata a pagare 750 milioni, cifra in realtà indicata in modo errato nel dossier. E sotto la minaccia dei banditi Spinelli chiamò ad Arcore, si legge nell'ordinanza, garantendo che quel filmato era autentico. Ero quasi riuscito a convincere Ghedini a pagare un po', racconta a verbale lo stesso Spinelli, ma nei giorni successivi riferì ai suoi sequestratori che Berlusconi voleva prima vedere i filmati. A quel punto però la denuncia in procura era già partita con un fax dello studio Ghedini. Gli arresti sono scattati questa mattina d'urgenza perché dalle intercettazioni era emersa l'intenzione di spostare verso una banca svizzera 8 milioni di euro che i PM pensavano fosse un anticipo del riscatto, si legge nelle carte, ma ora gli investigatori dicono che nulla è stato pagato. Restano però, come dicevi, ancora tanti misteri da chiarire intorno a questa storia e intorno soprattutto a quella creazione di quel dossier che mescola vecchie guerre finanziarie a più recenti sfide politiche. Di sicuro nelle 67 pagine dell'ordinanza del GIP agli atti c'è il racconto di una notte di terrore sintetizzata dalle parole della moglie di Spinelli, Anna. Ho pensato che ci avrebbero ammazzato, ho tirato fuori un rosario, dice, e abbiamo cominciato a pregare. E per ora è tutto. Grazie Raffaella Calandra, ci torneremo naturalmente su questa vicenda. Nel frattempo invece per la politica italiana, dopo le frasi di ieri è tornato a parlare il premier Mario Monti, oggi in visita in Qatar. Qualsiasi cosa accadrà nella politica italiana, penso che si tratterà di governi responsabili. Ha detto che faranno ancora meglio per far progredire l'economia italiana, parole che cercano di far rientrare le polemiche anche dopo il voto. Aggiunto, sono certo che i governi che verranno opereranno per il risanamento e le riforme. Polemiche che però restano. Il punto di Stefano Folli. Vendola, Di Pietro e altri si sono risentiti perché il Presidente del Consiglio ha detto in sostanza: non posso garantire per il domani, cioè per il governo dell'Italia dopo le elezioni. Posso però dire che bisogna proseguire nella linea tracciata finora. In realtà non c'è ragione di polemica se non per il fatto che siamo in campagna elettorale e ognuno usa le armi che può, senza dimenticare peraltro che Vendola è parte integrante del centrosinistra di Bersani. Ma quello dell'affidabilità internazionale dell'Italia dopo le elezioni è un tema vero che i partiti vecchi possono risolvere in un solo modo, cambiando in meglio la qualità dell'offerta politica, cioè presentandosi agli elettori con un volto nuovo e delle proposte responsabili. Se Monti viene visto all'estero come una figura indispensabile per mantenere alta la credibilità italiana è solo perché altri, i politici, non sono riusciti finora a essere altrettanto credibili. Mancano meno di 4 mesi al voto e c'è tempo per provarci. Tutte le iniziative nuove sono positive, da Montezemolo alle primarie, ma il tempo stringe. E torneremo allora più avanti all'Italia, prima andiamo invece in Medio Oriente dove dopo le vittime, mentre i raid proseguono, è però il giorno della diplomazia che dall'Egitto prova a fermare le violenze. Valentina Furlanetto, allora sentiamo con quale esito. Sì, allora oggi intanto il tema del Medio Oriente sarà al centro del Consiglio europeo. Inoltre Ban Ki-moon, il segretario generale dell'ONU, sarà in Egitto per dei colloqui per capire come fare per fermare la crisi. Su tutto questo le parole appena pronunciate dal premier turco Erdogan, ha detto Israele sta compiendo atti terroristici a Gaza. L'ho detto proprio poco fa, lo hanno appena battuto le agenzie, parole che rischiano di vanificare quindi questi sforzi di queste ore in una direzione diplomatica. Domani tra l'altro i ministri degli esteri arabi di 7 paesi, oltre al collega turco, porteranno avanti una missione della Lega Araba guidata dal segretario generale Nabil El Arabi a Gaza, e anche su questa missione si concentrano le speranze. Chiaramente c'è molta preoccupazione, il premier Mario Monti ha detto siamo preoccupati per l'escalation di violenza, ne ha parlato anche la cancelliera Merkel che ha chiesto un cessate il fuoco fra Israele e i palestinesi. E ovviamente tutta l'attenzione internazionale è verso il territorio dopo 6 giorni sappiamo che le vittime hanno superato le 90 unità, 10 morti soltanto nella notte. I punti di vista restano distanti, abbiamo sentito un israeliano e un palestinese poco fa, punti di vista diversi, quelli di Jacob Namani, israeliano che vive a Be'er Sheva, a 120 km a sud di Israele. Sentiamolo. Every night for last week we have more or less 4 or 5 alarms. Ogni notte durante l'ultima settimana scatta l'allarme. Accade anche 4-5 volte per notte e allora tutte le famiglie corrono nei rifugi. Durante la giornata cerchiamo di lavorare, ma è molto difficile. I bambini non stanno andando a scuola, rimangono a casa. La situazione è pessima, ma non è una novità, perché ci conviviamo da 10 anni. Ha paura per la sua vita? No, I don't afraid at all. No, ci sono armi che ci proteggono, ma vorrei che la situazione cambiasse e potessimo vivere in pace. È impossibile vivere in questa maniera. Chiediamo semplicemente al nostro esercito e al nostro governo di permettere che viviamo in pace. Sentiamo quindi il punto di vista palestinese da Khalil Shani, che vive a Gaza City e fa parte della ONG Palestinian Center for Human Rights. All the night bombing and targeting different installations, one of the main just now there is a bombing now. Ci sono stati bombardamenti tutta la notte, anche ora mentre stiamo parlando stanno bombardando in lontananza. Hanno colpito la stazione di polizia di Gaza e tutta l'area, case comprese, sono state fortemente danneggiate, alcune distrutte. In un'altra zona non distante da qui hanno colpito una casa dove c'era una ragazzina di 17 anni che è rimasta uccisa. 43 persone sono morte nelle ultime 24 ore, 10 ferite. La maggior parte sono bambini e donne. Ha paura per la sua vita? Of course I am, not only me. Certo, non solo per la mia, ma per la mia famiglia, gli amici, i colleghi. Non può accadere che a mezzanotte vengano colpiti civili che dormono nelle loro case. È assurdo. Sleeping in their houses, it's unbelievable. Israele non esclude l'offensiva di terra, lo ha riferito questa mattina un alto funzionario vicino al premier Netanyahu. Per ora è tutto. Grazie Valentina Fulanetto, staremo a vedere dunque che succederà sul fronte diplomatico. Restiamo però ancora all'estero nel frattempo, perché oggi c'è stata una visita storica per il presidente americano Obama. Obama vola in Asia e mette a segno il primo colpo sullo scacchiere internazionale del suo nuovo mandato. 6 ore in Myanmar, ex Birmania. Mai nessun presidente americano lo aveva fatto. Ha incontrato il suo omologo Thein Sein e la leader d'opposizione Aung San Suu Kyi. Ha parlato all'università e in un discorso definito storico ancor prima di averlo ascoltato, ha detto che gli Stati Uniti sono accanto al paese nel difficile percorso di riforma. A casa però Obama ha lasciato aperto un capitolo drammatico quanto insidioso. Nell'ennesima crisi mediorientale il presidente americano si è schierato con Israele, ma preme su Netanyahu, con il quale l'intesa non è facile, perché lo scontro si fermi prima del punto di non ritorno. Un attacco via terra su Gaza allontanerebbe ogni possibilità di negoziato. Il punto è che questa volta, più delle altre, dietro il conflitto tra israeliani e palestinesi si intravede l'Iran. Le armi di Hamas provengono da Teheran e sono mesi che Israele invoca una presa di posizione forte contro il regime iraniano. Per il presidente americano, dunque, ineludibile l'appoggio a Netanyahu, condizionato però perché una strage di civili nemmeno Obama può permettersela. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Noi supereremo questa grave crisi economica e finanziaria, così il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il Presidente della Germania Joachim Gauck, il Presidente della Polonia Komorkowski in una nota congiunta, un documento arrivato poco fa e che è già stato ribattezzato l'Appello di Napoli al termine della prima sessione del loro incontro appunto nella città partenopea. Proprio in questi minuti è in corso la conferenza stampa, allora cominciamo a sentire le prime parole di Giorgio Napolitano. Noi abbiamo discusso vari temi, i temi della governance economica, superamento della crisi attuale, i temi della condizione politica dell'Europa dal punto di vista dell'opinione pubblica, dal punto di vista del clima che si respira nelle popolazioni attorno al progetto europeo e infine il ruolo internazionale e le prospettive di apertura dell'Europa a ulteriori sviluppi della Unione. Ci torneremo nel corso della giornata a Napoli. Intanto però l'Unione Europea è alle prese con l'approvazione del bilancio. Nuovo incontro fissato per il 22 novembre, ma a mettere i bastoni tra le ruote è ancora la Gran Bretagna. L'ultima voce in vista del summit sul bilancio europeo suggerisce che si potrà arrivare a un accordo a 26 con l'Inghilterra relegata non si sa bene né dove né come. La voce, rilanciata dal Financial Times, trova apparente conferma in Downing Street che sostiene la questione sia in effetti discussa a Bruxelles, per poi aggiungere che ovviamente è inaccettabile. Che sia vera o sia solo una mossa politica di Bruxelles per premere su Londra o di Londra per premere sull'ala più euroscettica lo sapremo nei prossimi giorni. Quel che resta in queste giornate di tensione senza precedenti fra Londra e l'Unione Europea è la sensazione di un divario inarrestabile, sorretto da un sondaggio che assegna il 56% di elettori britannici favorevoli a un'eventuale uscita del Regno dall'Unione Europea. Restando ai temi del bilancio, la Gran Bretagna punta chiaramente all'esercizio provvisorio, ovvero a rinviare ogni impegno, il solo modo che consentirà al Premier di gettare un osso alle milizie euronemiche, le stesse con cui anche il Premier ha a lungo e pericolosamente giocato. L'imperativo categorico è comunque congelare la spesa. Ogni scenario alternativo per Londra, ma soprattutto per David Cameron, è politicamente, non economicamente, insostenibile. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. E in Italia, per uscire dalla crisi, si punta tra l'altro sull'accordo sulla produttività, attesa per oggi la decisione della UIL, in attesa anche di che la CGIL sciolga le sue riserve. E intanto però questa mattina a presentare i suoi dati sull'economia italiana è Federmeccanica. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Innanzitutto una dichiarazione di poco fa del direttore generale di Federmeccanica Roberto Santarelli. Le obiezioni della FIOM sono pretestose e strumentali, così ha detto Santarelli commentando la posizione della FIOM che non partecipa al tavolo per il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici dopo la lettera sulla produttività in cui la leader della CGIL Camusso chiedeva tra l'altro a Federmeccanica di sanare questo vulnus. I difficili rapporti con la FIOM, ha detto Santarelli, riguarda il merito, non il riconoscimento dell'importanza dell'organizzazione. La FIOM non è presente al tavolo del rinnovo non perché Federmeccanica non la giudichi rappresentativa, ma perché non c'è la condivisione dell'oggetto del tavolo della trattativa. E poi i dati che sono stati presentati oggi, i dati della 124esima indagine trimestrale di Federmeccanica, il quadro rimane negativo, le previsioni non fanno ancora intravedere segnali incoraggianti per il 2013, il settore ha avuto un decremento del 7,6% nel terzo trimestre dell'anno rispetto al terzo trimestre del 2011, mentre l'unico settore in controtendenza è quello degli altri mezzi di trasporto, cioè la produzione di navi e di materiale ferroviario. Tengono anche le esportazioni, in particolare quelle verso gli Stati Uniti e Giappone, mentre crollano quelle verso Cina e India. Di conseguenza tengono le imprese orientate verso l'export piuttosto che quelle che lavorano solo sulla domanda interna, per le quali è previsto un ulteriore peggioramento nei prossimi mesi. E da Roma è tutto. E grazie ad Alessandra Schepisi. Di tutto questo abbiamo già parlato, riprendiamo invece, come avevamo anticipato, dalle nuove contestazioni degli studenti al governo. Questa mattina è toccato al ministro dell'Ambiente Corrado Clini in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Parma. E novità arrivano anche sul fronte degli indagini sugli scontri a Roma durante il corteo della scorsa settimana. La Digos di Roma sta ancora passando al setaccio foto e filmati degli scontri di mercoledì scorso. Vanno avanti anche gli interrogatori con i quali gli investigatori stanno cercando di identificare gli uomini delle forze dell'ordine responsabili di violenze non giustificate nei confronti degli studenti fermati durante i disordini. Nelle prossime ore potrebbe aggravarsi la posizione del poliziotto indagato per aver manganellato sul volto un giovane già bloccato a terra da altri due agenti. Il ministro della Giustizia Severino oggi ha fatto sapere che verranno resi pubblici e trasmessi alla procura anche i risultati dell'indagine interna sui lacrimogeni che, a quanto sembra da alcuni filmati, sarebbero stati lanciati sui manifestanti dai piani alti del suo ministero. La Guardasigilli sottoscrive comunque i risultati del rapporto dei carabinieri della RACIS, secondo cui il lacrimogeno sarebbe partito dal basso e, dopo aver colpito la facciata dell'edificio, si sarebbe diviso in tre parti ricadendo poi in strada. Intanto, mentre le indagini vanno avanti, gli studenti annunciano per sabato prossimo, sempre a Roma, un nuovo corteo e si dicono pronti a portare con ogni mezzo la loro protesta sotto i palazzi del potere. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dalle piazze alle scuole, come spesso accade in autunno, sono partite le occupazioni in molti istituti, sono partite anche le polemiche. Allora ne parliamo alle 13.30, tra poco, in Scuole in Controluce. Altre indagini invece a Fiumicino. Questa mattina il cantiere del porto è stato sequestrato. C'è anche l'imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone tra i sette indagati nell'indagine che ha portato al sequestro da parte della Guardia di Finanza del cantiere del nuovo porto turistico di Fiumicino. Secondo l'accusa, l'opera pubblica, per un costo stimato di circa 400 milioni di euro, è stata realizzata con carenze tali da mettere a rischio la tenuta e la sicurezza. I lavori venivano affidati ad imprese riconducibili direttamente o indirettamente a Caltagirone, a costi sensibilmente inferiori, ma a scapito della sicurezza e della qualità. Il tenente colonnello Paolo Borrelli. È stato disposto il sequestro da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia per evitare l'interdizione dell'area, che è pericolosa. Tra l'altro è stato verificato che, a seguito delle recenti precipitazioni temporalesche di fine ottobre, c'è stato lo sprofondamento della zona terminale di una parte dell'area del molo di Traiano e quindi effettivamente danni e pericoli seri proprio in termini di sicurezza. Oltre a Caltagirone sono indagati i legali rappresentanti e i consiglieri delle società coinvolte ed il direttore dei lavori. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Apriamo anche la pagina dello sport, perché è un lunedì di polemiche per il calcio. È così, Carlo Genta, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Eccoci a un altro lunedì piuttosto complicato sul fronte calcistico, un lunedì che non ha mosso per nulla la classifica, visto che solo la Fiorentina e il Catania hanno vinto le rispettive gare, ma un lunedì complicato dalle polemiche arbitrali per un rigore non concesso all'Inter nel finale della partita con il Cagliari, per un fallo su Ranocchia. Grandi polemiche da parte del presidente Moratti, che è stato l'unico a parlare sul fronte nerazzurro, gli altri tutti zitti, e dunque attendiamoci un'altra settimana di sotterranea battaglia a distanza con la Juventus, che tra l'altro domani si gioca una partita determinante in Champions League contro il Chelsea. La verità è che l'Inter non ha giocato una grande partita, è parsa un po' in flessione, tant'è vero che Handanovic, portiere nerazzurro, alla fine è stato il migliore in campo. In serata c'era il derby di Genova, il derby della paura, 12 sconfitte consecutive tra entrambe. Vince alla fine la Sampdoria, che scaccia i suoi fantasmi e lascia il Grifone da solo all'ultimo posto in classifica. Abbiamo visto anche della Formula 1, c'è ancora un po' di speranza per Alonso, che arriva terzo ad Austin alle spalle di Vettel, secondo vince Hamilton. Si deciderà tutto in Brasile con Vettel, che però potrà gestire 13 punti di vantaggio. È tutto, linea di nuovo allo studio. Allora grazie, molti temi di cui parlare anche oggi alle 14, tutti convocati. Noi invece ci fermiamo qui, un saluto da Anna Migliorati, che ha curato e condotto questa edizione del giornale, Matteo Comes in regia. GR24 vi aspetta alle 14. GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini. GR Spettacoli. Buona giornata da Adriana Fracchi e ben ritrovati per una nuova edizione di GR Spettacoli. Twilight Breaking Down parte 2, da pochi giorni nelle sale cinematografiche, registra subito un record di incassi anche in Italia. Il capitolo conclusivo della saga dei vampiri va in testa nel fine settimana con 8.283.000 euro. Segue a distanza il cartoon Hotel Transilvania. Secondo i dati di Cinetel, terzo l'italiano venuto al mondo di Sergio Castellitto. Si intitola Viva Verdi, il CD con cui la Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Scegli, è tornata in studio di registrazione dopo 12 anni di assenza dal mercato discografico. Un modo per celebrare i 200 anni dalla nascita del compositore di Busseto. Il CD della Decca è stato realizzato con il sostegno di Unicredit. In febbraio, alla Scala, il maestro Scegli dirigerà la Filarmonica in una serata verdiana. Sentiamo il maestro Scegli. La cosa bella è stata prima di tutto di avere una possibilità di scegliere sulla grandissima selezione dei brani sinfonici di Verdi tra il grande repertorio amato dal pubblico e conosciuto e quello meno noto. E per l'orchestra della Filarmonica della Scala è stato un viaggio di scoperta molto importante, credo, capendo che il cosiddetto giovane Verdi scriveva magnificamente per l'orchestra, e imponendo una difficoltà tecnica alle sezioni straordinaria. Quindi questa alternanza credo renda così abbastanza stimolante l'ascolto ininterrotto di questo CD, che alterna continuamente due parti importanti della grande produzione verdiana, quella giovanile e quella della grande maturità. La musica italiana non domina solo le classifiche di vendita, ma in testa le preferenze degli italiani anche quando vanno al supermercato o escono fuori a cena. Secondo i dati dell'Osservatorio sui contenuti digitali di Nielsen per Fimi, la musica pop di casa nostra svetta sulle preferenze di ascolto per il 70% degli italiani, contro un 51% di musica pop internazionale e un 44% di musica rock. Parte oggi l'11ª edizione della Settimana della Cultura d'Impresa organizzata da Confindustria. Il tema è la cultura del cambiamento. Michele Perini, presidente di Musei Impresa. La scelta è data soprattutto dalla capacità delle aziende di innovare, e quindi di aziende che hanno anche una tradizione, una storia, Campari 80 anni, Saxa 90, quindi aziende che hanno un background molto forte, però che si rimettono in gioco reinventando prodotti e cambiando anche i processi produttivi. Nonostante questo periodo difficilissimo, durante la settimana abbiamo un insieme di eventi proprio mirati alla capacità di comunicare che il mondo d'impresa nella centralità del lavoro, il valore più importante per il paese. Si è appena inaugurata alla Galleria Open Art di Prato una mostra dedicata al grande artista Luigi Parzini e intitolata La lingua dell'assoluto. Il curatore Stefano De Rosa. Parzini ha letteralmente inventato una lingua pittorica. Non si è limitato ad adattare un linguaggio pittorico preesistente alle proprie possibilità espressive, ma ha fatto un percorso che lo ha portato a inventare una lingua pittorica. Un'invenzione fatta di attenzione portata al segno, al colore e a un dimagrimento, tra virgolette, della pittura per esprimere l'essenziale, l'indicibile, le istanze più remote e recondite dell'uomo. È tutto per questa edizione di GR Spettacoli. Un saluto da Adriana Fracchia.